ci fosse un'eventualità, che questo incontro tra di noi non sia una storia di routine, ma si ripeta prima o poi, ci fosse un'eventualità di uscire insieme tutti e due per esplorare la città con le mie storie e con le tue, ridere insieme dentro un bar tra sigarette e fatalità e poi andare a Luna Park sopra una giostra che non va. La mattina domani non arriverà, abbiamo fermato la notte sopra questa città, i marciapiedi vuoti, le vetrine spente, ci inseguiamo nel vento che ci inseguirà. Un semaforo giallo fa malinconie, dammene una tu che ho finito le mie. Nella notte intoniamo qualche nota di jazz, tu con la bocca fai sassofono e mi invento un refrain. Ci fosse un'eventualità che questo incontro tra di noi non sia una storia di routine, ma si ripeta prima o poi, ci fosse un'eventualità di uscire insieme tutti e due a ubriacarci dentro un bar per mischiare le mie storie con le tue. La mattina domani non arriverà, sulla nostra giostra dentro Luna Park, i marciapiedi vuoti, le vetrine spente, ci inseguiamo nel vento che ci inseguirà. Un semaforo giallo fa malinconia, abbiamo finito il pacchetto e lo buttiamo via. E nella notte intoniamo qualche nota di jazz, con la bocca fai sassofono e mi invento un refrain.